Estate calda questa per l'euro e nulla indica che il fresco della rinascita arriverà in fretta. Alla resa dei conti mancano pochi giorni, ora si parla di pacchetti per la crescita da 130 a 180 miliardi, i project bond, obbligazioni per raccogliere il denaro dei privati con garanzie europee per finanziare reti energetiche, trasporti, banda larga. Ma per riaccendere l'economia non basta un fiammifero, ci vuole tempo, prima si deve guarire dalla sbornia dei debiti bancari e dei debiti di Stato, che sono stati necessari per fronteggiare i debiti bancari e altri debiti di Stato. E poi manca la fiducia, fiducia che i governi vogliano prendere la palla in mano e farla girare, passarsela e vincere tutti insieme. Direttamente chiamata in causa, la Germania è sempre riluttante ad agire da locomotiva, solo disponibile a prendersi l'onore, paese più produttivo, più competitivo, più efficiente, mai a farsi carico degli oneri. Cambiano le alleanze in Europa, guadagna punti l'asse Monti-Hollande, ma il primo è indebolito dalle fibrillazioni della politica italiana, il secondo è a inizio mandato. Se il vertice europeo non dirà come spezzare il circolo vizioso, crisi bancaria, crisi del debito sovrano, se rinvierà scelte concrete per difendere i titoli pubblici dei paesi sotto il tiro dei mercati, l'eurozona potrebbe rivelarsi ingovernabile, avvitarsi in affannosi quanto vani tentativi di coprire un buco sempre più grande. Antonio Poglio Salimbeni da Radio Cor, per Radio 24 Il Sole 24 Ore, Bruxelles.